controllo le membra, non ho più parole, la luce va in ombra, stavolta ci siamo, stavolta crediamo, nell'indifferenza di questa.